Smart City, la città intelligente. Se uno viene oggi dall'autostrada di Milano, quando arriva a Reggio Emilia se ne accorge perché vede Calatrava. Quel ponte bianco, diciamo, con questi tiranti molto scenografici. Il nuovo skyline venendo da Parma. Quindi in questo momento l'architettura può rappresentare un elemento fantastico, un elemento assolutamente che deve essere coordinato, e non a caso qui a Bologna mettiamo assieme a 6 a 3 la parte intellettuale che progetta la nostra vita futura, ma la futura oggi, e altrettanto le aziende che producono questi prodotti. So che dal punto di vista dei visitatori sta andando molto bene. Ci sono molti visitatori stranieri? Assolutamente, quello ci fa molto piacere. Siamo al secondo giorno della prima edizione. Oggi abbiamo dovuto sospendere anche un attimo alcuni corridoi per sovraffollamento. Qualche numero me lo puoi dire sui visitatori stranieri? Stasera pensiamo di chiudere almeno con 12.000 visitatori stranieri e almeno un 40.000 operatori italiani. Quindi stiamo parlando di un risultato per noi esaltante. Avremmo firmato per un quinto dei risultati che stiamo ottenendo. Buonasera da Maurizio Melis, era la voce di Claudio Sabatini, presidente di SAIE3, che si svolge in questi giorni a Bologna, dove mi trovo, la fiera dedicata ai serramenti e all'arredo per interni ed esterni. È la prima edizione. Un mix che va dai serramenti appunto in PVC alle panchine per ricaricare i mezzi elettrici, fino ad arrivare a proposte architettoniche che sono quasi al limite del surreale, come alcuni dei progetti immaginati per sostituire i campanili distrutti dal sisma che ha colpito l'Emilia Romagna. Oggetti apparentemente molto diversi tra loro, che però hanno un elemento forte in comune. Sono tutti elementi del paesaggio. E c'è una mostra seguita da un convegno che, più di tutti gli altri appuntamenti di SAIE3, vuole riflettere proprio su questo tema, sul ruolo che in particolare l'arredo urbano può avere nel riqualificare il paesaggio urbano, ma anche sul ruolo che all'inverso il paesaggio urbano può avere nel promuovere tutta una filiera industriale, quella del design. Il convegno si chiama Le città parlanti, è curato da Novella Cappelletti, direttrice del gruppo editoriale Paysage, che ho incontrato, a cui ho chiesto di spiegarci intanto la scelta di questo titolo, Le città parlanti, e di cui mi ha colpito un passaggio, quando ha detto che siamo di fronte a una questione di sistema e non di design. Le ho chiesto di spiegarci anche questo, sentiamo. Noi siamo stati, come italiani sicuramente, molto bravi a costruire degli oggetti ad altissimo contenuto di design. Questo contenuto di design spesso ha superato l'oggetto stesso, e quindi le cose hanno assunto valore in quanto oggetti di design molto ben disegnati e con grande capacità anche poi da parte delle aziende di realizzarli. Il problema è che oggi abbiamo bisogno di un nuovo sistema, perché la somma di questi oggetti crea un sistema che dice ai cittadini se sedersi oppure no, se dissuaderli da un certo utilizzo o meno, se accoglierli o non accoglierli. Facciamo qualche esempio, la panchina. Esatto, oppure la panchina, la pensilina, il dissuasore, il cestino, ma le dirò di più, oggi abbiamo bisogno di oggetti più evoluti, quindi la pensilina diventa pensilina, diventa infopoint, diventa cestino, diventa ricarica per i telefoni, per gli automezzi, per le biciclette, per le automobili, quindi di oggetti multifunzionali. Non è solo questo, faccio un passo avanti. Dentro il termine arredo urbano, nella nostra legislazione, in molti comuni, rientra anche la parte di verde, che non è esattamente un elemento di arredo, ma che è molto di più, perché determina la qualità o la scarsa qualità dell'aria. Quindi noi che ci occupiamo di paesaggio sottolineiamo il fatto che è fondamentale quindi parlare di città e parlare di paesaggio urbano e non solo di elementi di arredo urbano, quindi non fermarsi solo lì. Ecco, ci faccia capire bene quindi la differenza, perché qual è il salto da arredo urbano a paesaggio urbano? Beh, intanto cominciamo a parlare di una questione fondamentale. Fuori dalla nostra, da tutte le nostre abitazioni esiste un paesaggio. Questo paesaggio è un paesaggio più o meno naturale, e nel caso in cui non lo sia dobbiamo anche essere consapevoli di quello che ci accadrà. Se ci ammaliamo di malattie polmonari, evidentemente la qualità dell'aria degli spazi in cui viviamo non è poi così alta, e quindi dobbiamo e possiamo agire. Come? Beh, per esempio cominciando a ragionare come si può migliorare questa qualità, e quindi introducendo degli elementi vegetali in maggiore e migliore quantità. Ma per farlo, siccome tutto il sistema è molto denso, abbiamo bisogno di arredi che possano prevedere questi inserimenti. Ecco, queste sono soluzioni molto, molto banali, che però, ripeto, determinano il futuro della nostra vita e della nostra città. Certo, tutto questo sarà difficile se si ripeteranno episodi come quello a cui si è assistito proprio in questi giorni a Bologna, nel cui centro era prevista l'installazione, proprio in occasione di Saie 3, di tutta una serie di oggetti di design e di arredo urbano, ma la cosa è saltata perché non è pervenuta per tempo l'autorizzazione della sovrintendenza alle belle arti. Unica spiegazione offerta per aver fatto saltare un'iniziativa anche preziosa e innovativa è stata: abbiamo 180 giorni di tempo per rispondere. Sentiamo il commento di Novella Cappelletti. Non ho, diciamo, seguito la questione della sovrintendenza, in particolare quella di Bologna, quindi racconto la nostra esperienza. Noi abbiamo sentito la necessità di coinvolgere le sovrintendenze in questo evento e di soprattutto di capire se esiste un coordinamento nazionale in termini, per esempio, sul tema dei Deor, che è la cosa più come dire, scottante. Perché l'installazione all'aperto. Esattamente, esattamente. Non siamo riusciti ad individuare esattamente chi, ma forse questo è un nostro problema. Al di là di questo, dico che forse, ecco, la parola sovrintendenza è un problema di nomi. Se si chiamasse marketing territoriale, si sentirebbe, come dire, coinvolto nel progetto finale. Grazie. Bene, ci fermiamo qui. Appuntamento a lunedì.